prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Il nostro viaggio nel mondo Caritas prosegue questa settimana, anzi torna a sud della diocesi nel vicariato di Este. Incontriamo telefonicamente il coordinatore vicariale Caritas, Piergianni Tinello. Benvenuto. Sì. Buongiorno. Grazie per Gianni per la disponibilità. Allora, spieghiamo che cosa fa un coordinatore vicariale della Caritas. Dovrebbe essere abbastanza semplice da capire, ma poi credo che la cosa si traduca in molte cose, no? Sì. Allora, il coordinatore vicariale Caritas, lo scopo principale, il ruolo, insomma, è quello di coordinare le varie realtà caritative presenti nel vicariato. Siano esse realtà caritative espressione delle parrocchie, siano esse espressione del mondo laicale, insomma, ecco. Cioè fare rete, insomma, con le varie realtà presenti nel territorio del vicariato di Este. La Caritas c'è in tutte le parrocchie o nella maggior parte? Allora, il vicariato di Este è composto da 15 parrocchie. Il numero, insomma, più di metà delle parrocchie hanno un gruppo Caritas attivo in parrocchia, cioè ufficiale, se così vogliamo dire. Sì. Nelle altre parrocchie, nelle restanti parrocchie, c'è sempre un referente o il parroco, una persona delegata del parroco, però si devono ancora strutturare ufficialmente, però comunque c'è sempre una realtà caritativa che a volte si può chiamare angeli della notte, a volte si può chiamare persone dell'autoaiuto, cioè ci sono diverse. Io infatti, prendendo servizio come coordinatore così Caritas, ho iniziato facendo un censimento proprio anche su indicazione della diocesi, per capire un po' qual era la realtà, cioè chi c'era che sì, magari non si sapeva, e immagino abbiate scoperto anche realtà di cui ignoravate l'esistenza. Certo, io vengo da dal mondo del volontariato, quindi alcune realtà le conoscevo, ecco, però in tante parrocchie non sapevo che nell'altra parrocchia c'era la presenza di questo gruppo, di quell'altro gruppo, c'era questa attività. Li ho un attimo, cioè oltre al censimento, dopo li ho anche un attimo riuniti per condividere e fare rete insieme, insomma, ecco. Ecco, appunto, ci sono degli incontri anche periodici, oltre magari ai primissimi che avete fatto, incontri o magari attività, non so, di informazione, di scambio, di esperienze, di necessità, di servizi? Allora, ho fatto un incontro del coordinamento vicariale Caritas insieme col vicario foraneo. Ne abbiamo già fatti due di questi incontri. E poi abbiamo iniziato questa attività di formazione, e anche in prospettiva dell'apertura del centro di ascolto vicariale Caritas, dove sono state coinvolte tutte le realtà caritative e non, insomma, ecco, volontari che volevano avvicinarsi a conoscere, insomma, questa realtà Caritas. E poi siamo sfociati, insomma, nell'apertura, nella iniziativa diocesana del centro di ascolto vicariale Caritas. Comunque è previsto un incontro due all'anno del coordinamento vicariale Caritas. Ecco, in questi incontri vi confrontate sulla realtà, scambiate esperienze, cosa succede? Allora, ci confrontiamo sulle realtà. Ci confrontiamo anche portiamo esperienze, ognuno della propria realtà, ma cerchiamo soprattutto di evidenziare quelle carenze che magari involontariamente ci possono essere nel fare rete, perché insomma le persone in stato di fragilità economica, in stato di povertà, sono tantissimi che si rivolgono al centro o al gruppo Caritas o al gruppo, però tante volte presi da questo, come si dice, da questa passione nell'ascoltare o nel dare aiuto alle persone, si riesce, cioè riusciamo a tralasciare, magari confrontarci anche telefonicamente per capire se c'è questa conoscenza, se c'è questo aiuto che magari possiamo darlo, ma più delle volte insomma cerchiamo, perché insomma siamo entrati anche nell'ordine delle idee che se non facciamo rete ogni gruppo da solo riesce a fare poco. Tanto, è un po' lo spirito che sta dietro anche alle unità pastorali, ecco. Esattamente. Anche questo. Ce ne sono già nel vostro vicariato di unità pastorali? Sì, abbiamo due unità pastorali. Abbiamo l'unità pastorale del Duomo di Este, Santa Tecla, sì, che comprende sono tre parrocchie: la parrocchia del Pilastro, la parrocchia di Rivadolmo e il Duomo. Un'unità pastorale e l'unità pastorale di Baone, che comprende le parrocchie di Valle San Giorgio e Calaone e Baone. Voi appunto ormai da un po' di tempo lavorate insieme, lei è coordinatore ormai da più di 2 anni, quasi 3, come potrebbe definire la situazione del vicariato? Cioè, quali esigenze maggiori e richieste sono emerse, da chi si rivolge alla Caritas? Allora, abbiamo tante persone che vengono per chiedere lavoro e di conseguenza aiuto economico, perché non riescono a pagare le bollette, non riescono a pagare, hanno affitti arretrati, non riescono a portare, come si dice, a pagare delle prestazioni mediche o medicinali per i familiari, soprattutto per chi ha bambini, anziani in casa. C'è tutta una realtà, però soprattutto quando vengono all'ascolto, cioè, è la richiesta di poter avere un piccolo lavoro o di iniziare, perché sono alla ricerca ma non riescono a trovare, o in un primo momento è stato licenziato il marito, in un secondo momento poi è stata licenziata la moglie, quindi abbiamo diverse realtà di questa portata, insomma, ecco, alle quali però non sempre magari si riesce a rispondere direttamente. No, non sempre, perché non abbiamo la bacchetta magica per il lavoro, però insomma attraverso anche l'apertura di uno sportello del Fondo di Solidarietà della Diocesi. E nell'ultimo anno abbiamo inserito nel programma formativo del Fondo Straordinario per il Sostegno a Situazioni di Disagio Sociale circa 25 persone. Poi abbiamo avvicinato anche attraverso la collaborazione delle parrocchie, attraverso i voucher, abbiamo inserito qualche persona nel dare aiuto, nel fare piccoli lavori così di giardinaggio, di sistemazione, di cura della parrocchia, del giardino, di tutte quelle attività, ecco. E piccola cosa, è una goccia in mezzo al mare, però insomma non abbiamo mai lasciato, abbiamo sempre cercato di dare una risposta, un aiuto a chi si è rivolto al nostro sportello o alle Caritas parrocchiali, insomma, perché dopo ci parliamo a vicenda, certo. A vicenda, dove magari non riesce uno, arriva l'altro. Arriva, sì, ecco, magari nasce un'idea, insomma, ecco. E noi ci auguriamo appunto che possiate continuare a svolgere questo importante servizio a beneficio della comunità. Ringraziamo allora tutti i volontari operatori Caritas del Vicariato di Este tramite il coordinatore vicariale Pier Gianni Tenello, che è stato al telefono con noi. Grazie e buona giornata. Grazie, buongiorno. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.